Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, mi trovo nella bellissima città di Urbino perché voglio seguire le tappe della vita di Raffaello Sanzio, di cui quest'anno si celebrano i 500 anni dalla morte. E Raffaello Sanzio, come ben noto, nacque proprio nella città di Urbino nel 1483. Quando questo giovane viene alla luce, già la città è sfolgorante, il palazzo è già pronto, come lo vediamo noi oggi, il meraviglioso palazzo rinascimentale della Urana e di Francesco di Giorgio Martini. All'interno ci sono già lo studiolo del duca, ci sono gli arredi e il giovane bambino per la città poteva vedere passare verso sera il vecchissimo Piero della Francesca cieco accompagnato dai suoi allievi. Questo giovane è figlio d'arte, era figlio di un pittore, di un funzionario della corte dei Montefeltro, Giovanni Santi, e probabilmente dal padre apprende l'arte della pittura. Resta però molto giovane, orfano, e deve continuare a lavorare con un allievo del padre, Evangelista di Pian di Meleto. E insieme a questo Evangelista di Pian di Meleto, il giovane Raffaello comincia la sua carriera. Noi oggi non conserviamo molte opere di Raffaello nella città di Urbino. Bisogna andare nella casa natale, che ancora esiste, dove su un muro si dice che ci sia una Madonnina con un bambino giovanile del giovane debuttante Raffaello. Mentre la Galleria Nazionale delle Marche, che si trova nel Palazzo Ducale, conserva in effetti un grande capolavoro di Raffaello. Ma un Raffaello più tardo, quando Raffaello è già diventato famoso, è già tra Firenze ed è tornato a Urbino come pittore famoso e realizza un ritratto misteriosissimo. La cosiddetta muta, una donna, non sappiamo esattamente chi sia questa bellissima donna ritratta, che probabilmente Raffaello ritrasse o già nel periodo fiorentino oppure quando rientrò intorno al 1507-1508 nella città di Urbino. Oggi noi veniamo a visitare questa città soprattutto per quello che è il patrimonio, diciamo, della fine del 400, il palazzo e quello che c'era rimasto, ed è interessante capire come Raffaello vide per esempio le opere di Piero della Francesca e da qui imparò quella straordinaria umoria che avrebbe poi realizzato in tutti i suoi dipinti nella sua breve vita. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.